minori, di assistere quotidianamente ad uno sgretolamento di quelli che lei poc'anzi ha definito modelli di famiglia, per fattori quanto mai vari e certamente non naturali. Quindi io le chiedo cosa tutti noi possiamo fare come soggetti singoli, cosa possono fare, cosa si può fare a livello istituzionale e quali possono essere gli strumenti da utilizzare per evitare la formazione di coppie, nuove coppie, fuori dal matrimonio. Guarda. Probabilmente, attenzione alla risposta che ti do, probabilmente puoi fare poco se non custodire quella nuova coppia, che molto spesso è fatta da gente giovane, che è inserita in un contesto sociale diverso da quello in cui si è vissuta tu. I giovani oggi hanno paura del matrimonio, hanno paura perché non hanno condizioni di sicurezza e di chiarezza nel loro lavoro, hanno paura di vincoli che siano per sempre. Impegnativissimo il titolo di questa conversazione, perché è proprio uno dei fattori condizionatori più pesanti che ci sono, il per sempre. E viceversa, sembra che l'ad tempus sia maggiormente garantito in termini di libertà personale, in termini anche di consapevolezza che le cose cambiano. Allora, ci sono varie cose, io ti farò tre esempi. Il primo è ipotesi, tua figlia ti dice: vado a convivere con il mio ragazzo. Vado a convivere con il mio ragazzo e perché? Perché noi vogliamo stare insieme, ma insomma in questo momento noi non ci vogliamo sposare perché ancora non siamo sicuri, eccetera. Tu puoi fare tutta la guerra che vuoi e forse hai diritto, attenzione, a una guerra iniziale, che è una guerra di posizionamento. E io ti spiego perché non vorrei che tu facessi questo. Ma non te lo spiego in base a un conformismo sociale. Te lo spiego perché tu, che vogliamo ti chiami Susanna, perché io voglio per te, Susanna, questo. Dopodiché tu decidi lo stesso di andare a vivere con il tuo ragazzo. A questo punto la mia guerriglia cessa, perché io punto soltanto a una cosa, che tu riesca a convertire questa relazione transitoria in una relazione stabile, per esempio che tu ti sposi. Ma guarda, ormai se ne vedono tantissime che poi, ormai se tu chiedi al parroco della tua parrocchia, che non so quale sia, ti dirà che al corso di preparazione al matrimonio su 10 coppie 8 già convivono. E ti sarà anche capitato che quando tu chiedi a una coppia che si sta per sposare che cosa ti regalo per matrimonio, dici: guarda, ci abbiamo già tutto, perché ci abbiamo già la casa. Dice: dacci un contributo, ormai questo è il classico, dacci un contributo per il viaggio di nozze, perché sembra che più lontano vai. E molte volte nel viaggio di nozze, attenzione, sono inclusi anche i figli. No, ma a me capita non poche volte. Portiamo in viaggio di nozze, anzi ci passiamo da Disneyland perché gliel'abbiamo promesso. Allora, il tuo impegno è quello di costruire questa relazione, aiutarla come madre, intendo dire, no, stiamo parlando per piano, di aiutarla così. Poi viceversa, se ti rendi conto che è una relazione che non funziona per i motivi che siano, l'aiuti a capire perché non funziona, però l'aiuti a capire perché non funziona non perché tu sei un elemento distruttivo e disgregativo in quella relazione, ma perché già ci sono in quella relazione gli elementi distruttivi e disgregativi e tu l'aiuti a riconoscerli, a prenderne coscienza e probabilmente ad avere il coraggio di dire basta, che è una volta una cosa abbastanza difficile, perché a volte dice, dopo un'esperienza che abbiamo fatto, dico, abbiamo convissuto 3-4 anni, però poi magari c'è stato anche un figlio, però poi alla fine basta. E tu dici: questa è casa tua, che è tutto il contrario di quello che si diceva una volta: se fai così non tornerai mai a casa, bla bla bla. Al contrario, questa è casa tua, spalancata la porta, vieni. Perché tu gli stai trasmettendo, sto parlando di tua figlia, sto parlando, diciamo, tra virgolette, di quella relazione per tua figlia, la figlia della tua amica, cioè quei contesti di prossimità che tutti noi viviamo. A degli amici che recentemente, giovani, sono andati a vivere, io gli ho regalato una... anche perché la cosa che ho regalato ai miei nipoti tutte le volte che si sono sposati, gli ho regalato una bellissima Madonna. Guarda, perché io spero che questa vi aiuti a, in qualche modo, cioè che la prima pietra della vostra casa possa essere davvero un pensiero, perché è anche fondamentale che loro restino vicini, ci mancherebbe altro. Si parla della catechesi dei divorziati e vuoi non parlare della catechesi delle coppie di fatto, ma che stiamo scherzando, tenendo conto che è un fattore sociale importante in questo momento. Non possiamo permettere che si allontanino. Non è quello che tu vorresti, ma è la stessa cosa di quello che diceva prima la nostra amica. Ma tu assumi la situazione dei tuoi figli così come sono e la assumi in una relazione di cura, in una relazione di incoraggiamento, in una relazione di protezione. E questo sul piano personale. Quindi figlio è per sempre. E quindi essendo figlio per sempre, per questo io ti dicevo prima, la relazione di coppia in una famiglia, attenzione, la relazione di coppia nella famiglia marito-moglie è la più fragile di tutti, perché quella, e per questo va custodita con la massima cura possibile. Ma la relazione di coppia, madre-figlia, padre-figlio, madre-figlio, quella non si rompe mai, quella è per natura per sempre. E quindi va custodita in modo diverso, ma va custodita. A livello invece istituzionale, che cosa possiamo fare in senso ampio? Pensiamo a livello istituzionale cosa può fare la Chiesa. Beh, si dovrebbe riprendere una catechesi della formazione dei giovani più incisiva. Se voi pensate, ci sono delle cose bellissime, anche scritte perfino da Giovanni Paolo II, queste, quando lui era vescovo di Cracovia, ricordate con gli studenti universitari, la bottega dell'orefice, ma insomma, cito questo, ma potrei citare mille altre cose. Cioè, la catechesi dei giovani va ripresa e va ripresa come una catechesi che include anche la relazione affettiva e la relazione di coppia. Guardate, molti di voi probabilmente hanno i figli nelle scuole, se sono qui palermitani hanno i figli a scuola a Limera piuttosto che all'Altavilla, e sanno che a 14 anni il problema che scoppia è il problema della classe mista, il problema della coeducazione, il problema... Per carità di Dio, non voglio affrontare questo problema, che è un problema serio, ridendo, non lo voglio affrontare, voglio soltanto dire che a 14 anni ti fa ridere un po' il problema, perché tu ti stai appena cominciando a porre il tema, no? Quando te lo devi porre seriamente il tema della coeducazione, ma proprio seriamente, necessariamente, è esattamente quando questi rapporti affettivi cominciano ad avere uno spessore di responsabilità, che poi normalmente ci arrivi alla fine del liceo, primi anni di università e per molto tempo, per me la fascia importante di una formazione spirituale profonda alla relazione di coppia preventiva è la fascia dei 20-30, che se ci pensate è la fascia in cui i ragazzi più facilmente si allontanano. Ma è lì che va portata la riflessione su come si impara a voler bene, su come si impara gestire il proprio egoismo, il proprio egocentrismo, su come si impara qual è la generosità del dono all'altro al di là del linguaggio romantico e sentimentale, su come si impara la fatica. Quindi a livello istituzionale, come diciamo noi, la Chiesa deve tornare a fare la sua parte con una catechesi di ampio respiro. Come? Non lo so, sarà la pastorale universitaria, sarà la pastorale nella parrocchia, sarà la pastorale nei movimenti. Però questo è un punto fondamentale, preventivo. Poi certamente ci sono i ruoli che deve fare, che so io, poniamo adesso il livello, poi vengo anche un altro, passo subito a livello politico e poi torno indietro. A livello politico, se tu non fai politiche per la casa, se tu non fai politiche per il lavoro, se tu non fai politiche per la natalità, politiche demografiche, certo che rende difficili tutte queste cose. Se tu non fai politiche in cui l'alleggerimento della pressione fiscale, adesso questo è forse una delle poche cose veramente positive di quest'ultima legge di stabilità che abbiamo votato, sono le detrazioni per ogni figlio. Tant'è vero che scherzando, le detrazioni per ogni figlio sono 3.500 euro fino a 3 anni. E poi diventano molto di meno negli anni successivi. Per noi, dopo 3 anni, l'ammazzi e ne fai un altro, perché così riesci a detrarre un altro. oppure lo dai in affido a qualcun altro, dico scherzando, però per dire, se tu non fai una politica che veramente metta le persone in condizione di avere una casa, di avere un lavoro, di poter avere dei figli, di poter avere delle possibilità di conciliazione famiglia-lavoro effettive, quindi una politica di asili nido, cioè sono tutta una serie di cose che, guarda, sono presenti in tutti gli schieramenti politici, perché devo dirti, tutti ci hanno provato, in un modo o nell'altro, chiama le detrazioni, chiama le deduzioni, cioè al di là del modello, tutti vorrebbero la casa per le giovani coppie, il piano casa, tutti. Di fatto ci troviamo in un contesto in cui non si riesce, né che sia stato un partito di destra, né che sia stato un partito di sinistra, né che sia stato un partito dei tecnici, non si riesce ancora a fare della famiglia il soggetto sociale che è, come dire, il filo d'Arianna che permette di uscire dalla crisi. È come se si dicesse quando saremo usciti dalla crisi, allora faremo. Adesso non ci sono le risorse, questo è l'alibi di Padoa-Schioppa, di Tremonti, dell'alibi di Grilli, perché come sapete in realtà poi alla fin fine tutta la politica oggi è controllata dal MEF, cioè dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tutti devono fare i conti con il MEF, ma qualunque colore. Però è questo, sì, che c'è tutta l'azione importante del forum delle famiglie, c'è tutta un'azione che chiaramente deve essere un'azione di condizionamento forte, no? Per esercitarla davvero nei confronti della politica. Vediamo, adesso ci avremo tanti programmi elettorali, sicuramente tutti metteranno nei loro programmi elettorali la tutela della famiglia. Il problema è chiedere, ma il forum delle famiglie lo farà, perché lo fa tutte le volte, presenterà 5 punti, quali sono i parlamentari di tutti gli schieramenti che sottolineano questi punti, faremo delle dichiarazioni pubbliche, poi quando si arriverà al momento bisognerà vedere cosa dice il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Però adesso questo qui lo dico un po' ridendo, un po' scherzando, ma più è forte il soggetto politico che rappresentate, quindi più è coeso all'interno delle diversità e più è possibile la sua capacità di esprimere questo. Certo, poi ci sono le politiche per la famiglia che fa un imprenditore, ci sono le politiche per la famiglia che fa un direttore di un dipartimento quando mette a concorso una borsa di studio per un giovane ricercatore. E quindi stabilizza una situazione di un ragazzino brillante che però se ne andrebbe perché tu riesci a ricavare risorse per questo. Cioè poi diventa una passione dominante dell'intera società, come imprenditori, come professori universitari, come enti locali, per rendere possibile ai giovani le risorse per la famiglia. Ma culturalmente noi dobbiamo riuscire a ricordare alle persone questo che ti dicevo un po' prima, che è la storia dei cicli di vita. La vita, guarda, che è lunga, eh? Non ti puoi concentrare in questo momento solo su questo. Quando pensi alla famiglia, tu pensi a un arco per tutta la vita, e la vita è lunga. E, diciamo, in senso positivo lo dico, per cui ci possono essere anche dei momenti in cui la famiglia è un po' più pesante e magari ne vorresti fare a meno. Ma ti assicuro che ci saranno dei momenti in cui non potrai farne a meno. Allora, incominciare a ragionare anche nelle cose con una logica di continuità, con una logica che non è la rottamazione, altro termine molto di moda, rottamiamo i rapporti, rottamiamo, ma rottami che? Il tema è come, ovviamente, ridisegno una distribuzione di compiti, di competenze, come ridisegno una distribuzione anche in un certo senso di situazioni complesse, condividendone il peso, eccetera. Quindi una risposta molto semplice: davanti al caso concreto io mi faccio dettare la linea dal caso concreto e da parte mia cerco di stabilire un'alleanza il più efficace possibile, per cui, come si dice, cedere, concedere senza cedere con animo di recuperare, no? Quindi concedo senza cedere, perché lei sa perfettamente, mia figlia sa perfettamente che voglio che si sposi, oh, non è mica un mistero per nessuno, glielo dico giorno, mattina, notte, smonto, riposo, prima e dopo i pasti tutte le volte, però sono dalla sua parte, sono con lei, ci può sempre contare su di me per qualunque cosa. E poi invece a livello istituzionale faccio la mia parte, perché già, però anche poi a livello formativo chiedo alle grandi agenzie che si occupano di formazione di fare anche loro la loro parte.